della Johnny Roy, S.Rock, Red Dawn, Glamour, Red Light, Sand Beach, Too Loud for Crowd, 2013, Porno Pride. Che cazzo pensi, non ho i mezzi per fare soldi, è successo. Tengo in tasca 50 cent al giorno come Curtis Jackson. Sono il riflesso dell'italiano stanco e povero, azzittito e placato con l'oppio del popolo. E vivo scomodo tra zombie lobotomizzati, umani robotizzati come soldati arruolati. Nella mia nazione comandano l'opinione, il modo di pensare se lo impone la televisione. Siamo in tanti ma si sa l'impegno è incostante. Cittadini replicanti come in Blade Runner. Tu non girarci intorno come Tina Turner, che non sei l'unico stronzo senza l'ombra di un contante. Io rapper militante, hai capito male bro, che tu ci creda o no, io non ci svolto con l'hip hop. Sai com'è, all we need is cash, job and hope. Ma Johnny, Steve e Bob ci hanno lasciati già da un po'. E siamo gli ultimi degli italiani, senza futuro né speranza e tanti sogni vani. E chi ha la forza di salvarci pensa solo ai suoi affari. Scagliano la prima pietra, poi nascondono entrambe le mani. E siamo gli ultimi degli italiani, gli ultimi degli italiani, gli ultimi degli italiani, gli ultimi. E siamo gli ultimi degli italiani. Scagliano la prima pietra, poi nascondono entrambe le mani. Parlo di chi non ha un domani, di chi non ha nulla tra le mani, dell'ultimo degli italiani. Esodato, sfrattato, carcerato, umiliato, e poi ti chiedi perché sta incazzato. Porto voce e volti a zittire le chiacchiere, contro i poteri forti e la casta delle maschere. Siamo ai ferri corti, scontri nelle piazze, ogni ideale c'ha i suoi morti e io ho scelto di combattere. E urlare tra i sordomuti, ai portoni chiusi, tra campanari dannati e sopravvissuti. Tutti muti e l'omertà con la sua ombra sulla testa e tira una bomba contro sto muro di gomma. Chi torna a casa con due spicci e la schiena spaccata, chi dorme in macchina e la casa gliel'hanno levata, chi sta sotto le stelle e sogna l'intifada, chi vorrebbe coltivare ma è terra bruciata. Come on. Siamo gli ultimi degli italiani, senza futuro né speranza e tanti sogni vani. E chi ha la forza di salvarci pensa solo ai suoi affari. Scagliano la prima pietra, poi nascondono entrambe le mani. E siamo gli ultimi degli italiani.